passa stessa stazione. Fa subito coglione, mentre ti sento viaggiare in ogni direzione. Dentro devozione al gioco, quello che quel deficit non ha. Stupido stronzone, guarda un fattone. Vistiamo, creiamo, facciamoci. Sei narrazione di sto colore, meno che mi passa dentro senza stazione. Codati loro, temono ogni allucinazione. Sei estasiante, giostra oltre ogni definizione. Sole, enigma, bagliore, d'umore atomico, spasmo, attendo qui la beatificazione. Dente oltre il fango delle placere. Sole, enigma, bagliore di un frutto amico, spasmodico, attendo qui beatificazione, la mente oltre il fango delle placere. Immergo e mi sono in un bagliore. Sommergo i miei dolori, mi schiazzo, muore coglione di uscita lezione. Orrore di morte. Fuggi via da me, che voglio sopravvivere. Mezzate di fuoco, lontano, lontano, lontano, finché mi verrà a ridere. Immergo i miei sogni in un bagliore. Sommergo i miei dolori, un whisky amore. Cacci la lezione. Orrore di manca. Fuggi da me, che posso vivere. Questa mezzanotte di fuoco, lontano, lontano, lontano, finché anche a me verrà a ridere. Liquido che passa senza stazione, fossa però tupido coglione. Lì che passa dentro senza stazione, treno di una visione, treno di una visione. Sole, enigma, bagliore di un fuori atomico, spasmodico, quando qui la vivizione della mente oltre il fango delle placente. Ergo i miei sogni in un bagliore, sommergo i miei dolori in wiki a sole di acida redenzione. Predi, manca, ci via da che posso vivere sta mezza di fuoco, dopo una vita stanca, lontano, lontano, lontano, che anche verrà da ridere. Amami, finché anche a me verrà da ridere, da ridere. Immergo, mi miei sogni in un bagliore. Sommergo i miei pensieri, fuori di whisky di mi uccida lezione. Vedi manca, fuggire che voglio vivere queste zone di fuoco. Oltre il giorno stacca, lontano, lontano, lontano, che a me verrà da ridere. Questo treno della vita che corre dentro nella vista e contro mano.